Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Amici di Blu Radio Sera, amici di Blu Radio Veneto, eccoci qua, buona serata. Il saluto vi arriva da Francesco Galante, con anche la voce del nostro esperto tuttologo di questa sera, che è Flavio Bilato. Ciao Flavio. Grazie per l'esperto tuttologo, non mi aspettavo questo, Francesco. Già in principio di trasmissione sono in imbarazzo, anche perché abbiamo un ospite davvero eccezionale in questa serata. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Andrea Mirò. Buonasera Andrea. Ciao a tutti, eccoci. Eccolo, allora, sei qua non per caso, ma perché stai promuovendo in giro per l'Italia quello che è il tuo nuovo disco fresco fresco, non ancora un mese, ancora lo stai portando a spasso. Si intitola Elettra e Calliope, quindi due personaggi della mitologia greca, uno legato più alla parte razionale, uno legato alla parte poetica. Certo. Allora, come mai hai voluto riprendere questi nomi così importanti? Allora, primo per far rispolverare a tutti quelli che hanno fatto il classico, sì, a fine. È per quello che parlavo di tuttologo, perché... ecco. E poi invece per i più giovani, per farli andare diretti su Wikipedia, perché loro quello, certo, fanno. Sì. No, a parte gli scherzi, mi piaceva, avendo del materiale diverso, con due connotazioni diverse, appunto dare un'impronta alla prima parte, che era strutturata con un arrangiamento live in studio, quindi una cosa molto sanguigna, molto pronti via, attacchiamo il jack e andiamo, e quindi volevo dare un nome, trovare un nome che potesse contenere questo tipo di mood. E ho trovato in Elettra il personaggio che poteva essere anche è forse uno dei personaggi della tragedia greca più frequentati, quindi comunque un nome sentito, e quindi avendo trovato Elettra mi mancava l'altro personaggio, e a quel punto mi sono chiesta, visto che l'altra parte invece ha questa connotazione da studio, quindi più di testa, più, mentre l'altro di pancia, questo di testa, quindi più lavorato con l'ausilio dei computer, eccetera, suonato ma in un altro modo, ha un'altra, una veste totalmente implosiva. Io l'ho sempre visto questa parte, e la vedo tuttora, come una colata di petrolio, quindi densa, che lentamente si espande e... non meno potente dell'altra, che invece è esplosiva, no? E allora volevo un nome a prestito e non sapevo bene. Poi a un certo punto mi è venuto in mente: ah, cavolo, ma il capo di tutte le muse, la musa della poesia, non è Calliope? È Calliope, ecco, e quindi ho detto, perfetto. Calliope, che dal greco significa dalla bella voce, e quindi assolutamente ci andava a nozze, perfetto, diciamo, con questo. Ecco l'esperto. Quindi diciamo la parte esplosiva, quindi Elettra, quindi un grande elettro rock, la parte implosiva, come dici tu, Calliope, che è tutta di riferimenti molto molto particolari. Proprio più intima, sì. Parla dell'interiorità. Ed è a volte molto più, se vuoi, potente, cioè scardina dall'interno. Ecco. E quindi durante la passeggiata in questa intervista avremo modo di ascoltare qualcosa di Elettra e qualcosa di Calliope, cercando di prendere tutti quelli che sono i riferimenti e le varie sfumature. Ma per far conoscere già ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando, di quale disco stiamo parlando, probabilmente già qualcuno dei nostri ascoltatori l'avrà ascoltato durante le nostre programmazioni, quindi direi di iniziare con quello che è anche il singolo trainante, che state appunto portando in giro come prima programmazione, però non ce l'ascoltiamo nella versione classica da disco, invitando chi volesse entrare in possesso del disco di recarsi in tutti i negozi di dischi, c'è, sì, ecco, beh. Ma noi proponiamo, confermo perché l'ho visto giusto sabato, ecco, diciamo che Il sogno dell'astronauta, allora ce l'ascoltiamo acustica, in versione assolutamente acustica, e torniamo a commentarlo insieme. Più grande del più profondo mare, così maestoso che ci puoi annegare, nell'immenso spazio guardo fuori 220.000 stelle impresse nei miei occhi. macchie sulla pelle, a tempestare di diamanti il cielo. Non ero ancora nato, ma son certo che da qualche parte c'era scritto il mio destino. Vestito come un angelo, un aviatore, il suo veliero, cavalcando l'infinito. E sogno ad occhi aperti il mondo che vorrei, dove ho messo da parte un angolo per noi, se vuoi. E ogni lacrima di pioggia sulle curve della terra cade lentamente quando tornerò. Io ti racconterò. Girando i fogli al calendario, non mi ricordo più che giorno è, l'ultimo tramonto e forse ieri. Se vuoi saperlo, a volte canto, perché del mio silenzio sono stanco, il vuoto è più potente del rumore. Illuminato dalla vita, nell'universo sconosciuto c'è il contatto con l'eternità. E ho viaggiato a mille chilometri da qui, dove freddo e fuoco fan cambiare idea. Ho volato col mio corpo sopra il buio dei pianeti, nella scia luminescente degli anelli che tu non vedi. Dimmi, ci credi? Dentro della mia finestra tonda ho disegnato un sole per quando il sole gira e non c'è più. Ma ho sognato e sogno il mondo che vorrei, dove ho messo da parte un posto anche per noi, se vuoi. Né dolore né rimpianto alla fine del racconto, ci potremo ritrovare ancora qui, ridere ancora, vivere ancora. E questo era il bellissimo brano Il sogno dell'astronauta in versione live. Complimenti, è solo veramente... qui, cioè succedono solo, solo nei mini live succedono queste cose. È bellissima. Sono versioni altre. È per Bacco, ma è bellissima proprio anche solo chitarra e voce. Poi insomma, sembrano nati insieme la tua voce con quella della chitarra, no? Cioè si fondono. Io ti ringrazio. Sì, no, assolutamente è vero. Sì, ecco. Allora, il sogno dell'astronauta. C'è questa rappresentazione di un astronauta che guarda fuori dall'oblò, sì, e cerca il suo destino, forse non riesce a trovarlo, cerca di parlarne anche con altri, però in quel momento lì è solo. In totale solitudine, è il suo punto privilegiato, quindi a grande distanza, no, distaccato dalle cose del mondo, però anche in totale solitudine, quindi è... questa posizione ha i pro e i contro, ma in realtà in seconda battuta direi che può essere la lettura più oltre le righe, insomma, tra le righe, come vuoi, la funzione, se mai ce n'è una, ma comunque il ruolo, secondo me, dell'artista, che è quello che questa visione del mondo a distanza, nel senso il più oggettivo possibile, anche se molto soggettivo, che è la sua. Certo, la sua, anche se questo astronauta vuole in un certo senso entrare in contatto con quella che è l'eternità, la sta cercando in questo momento. Beh, è il posto d'elezione perfetto per essere a contatto con qualcosa che al di sopra degli uomini credo che più del cielo e dello spazio non ci sia. E sembra che poi a un certo forse punto... Forse c'è l'acqua, però... Diciamo nell'immaginario comune nell'acqua non si riuscirebbe a gridare dimmi ci credi come hai gridato tu all'interno del pezzo. Verrebbe un po' tutto molto contorto e privo di significato. Allora, vediamo di parlare di quella che è stata la carriera artistica di Andrea Mirò, sempre un personaggio particolare, perlomeno noi Festival di Castrocaro. Diciamo che è la fine anni 80, sì. Perché se no sembro veramente una nonna. In realtà diciamo che tu, Andrea, hai cominciato davvero giovane. No, è che molto, molto presto, questo sì. Cominciato, possiamo dire quanti anni avevi a Castrocaro? Così per forza. No, scusi, tanto 17 anni, quindi vedi, confermato. Come una Gigliola Cinquetti a quel tempo che diceva non ho l'età, no? Esatto. In quel caso lì tu ti eri presentata al Festival di Castrocaro, però la tua presenza musicale è stata sempre, diciamo, alternata da altre tue passioni, nel senso non sei stata sempre legata, diciamo, al tema musicale o essere sempre visibile, diciamo, dai mass media. Ma no, perché poi fondamentalmente le mie scelte sono state altre. Cioè io ho sempre detto in poche parole battuto strade secondarie, ma non perché non mi piacesse seguire la strada maestra, è che nella strada maestra non c'erano le opportunità che io volevo e desideravo per questo mestiere quando ho iniziato. Diciamo che a metà degli anni 90 si è cominciato a lasciare spazio a quello, ed è venuto anche una, come posso dire, forse la forma fondamentale per l'artista è stato quello di scrivere le proprie cose, perché sono venuti meno quello che era la cultura degli autori e degli interpreti, no? Quindi perché anche il linguaggio è cambiato, quindi il fatto di scrivere delle cose proprie, anche a volte molto crude, no? Molto dirette, è diventato un punto di forza. E aspettavo questo momento, perché quando io ho iniziato era ancora troppo presto, cioè, oppure era dato solo ad alcuni. Quasi sempre uomini, diciamo, che si era fuori da quello che era il canone cantautorale, appunto tu dici maschile, si era appena arrivati alla fine di quella che era l'epoca dei cantautori, si cominciava a suon di band o di interpreti che svolgevano attività per conto d'altri. E quindi io ho iniziato entrando in una situazione, peraltro mio malgrado, nel senso mi sono trovata in una situazione fortissima, o praticamente mi è passato, sono salita su un treno che tutti avrebbero voluto prendere, però nel momento sbagliato in realtà, cioè non era quello che io volevo e non era quello il momento in cui io avrei voluto. Ti sei fatta rimborsare il biglietto? No, del treno, purtroppo no, diciamo che ho fatto, sono tornata in stazione, sono ritornata e poi ho deciso io quale treno prendere, quando prenderlo e come prenderlo. E allora questo è stato un percorso che ho fatto sia personale, perché comunque ero troppo umanamente, proprio ero giovanissima, avevo proprio voglia di altro, io studiavo conservatorio, quindi avevo altre cose per la testa, vedevo questo mestiere da un'altra prospettiva e anche vicino agli altri, cioè lavorando poi vicino a mi è capitato fortunatamente di lavorare con dei grandi artisti, io ho annoverato dei nomi che insomma fanno invidia a molti. Ho giovanissimo lavorato con Finardi, con Vecchioni, con Mango, con Ron, con Ruggeri, insomma, e ci ho lavorato in studio, ci ho lavorato live, ho cantato nelle loro cose, loro hanno scritto cose per me, insomma non mi posso lamentare, però quello che poi alla fine volevo era scrivere le mie canzoni. Bene, torniamo a bomba su quello che è Elettra e Calliope, questo CD formato appunto da due parti, la prima Elettra, come dicevamo i nostri ascoltatori, la seconda Calliope, quindi due maniere diverse ma molto distanti tra loro, ma molte volte gli estremi si attraggono. Sì, e per cui due facce di una stessa medaglia, fondamentalmente sono medaglia. Due zone che io amo tantissimo, la parte live musicale più diretta e la parte più lavorata, più pensata, che mi piace, che mi intriga. Ecco, in questo album le hai scritte tutte tu, le canzoni, ce n'è una che è in collaborazione. C'è una che è in collaborazione perché è un pezzo che io ho ripreso dal 2001. Quindi Lucidamente, un pezzo se non sbaglio. Bravissimo, no? Preparatissimo. che è una canzone che io avevo scritto con Enrico Ruggeri. Sì. E quindi l'hai riproposta in questo... L'ho riproposta perché l'ho, l'ho spogliata e l'ho rivestita. Ah. Stiamo parlando in questo caso di Il mondo dei non vivi. Il mondo dei non vivi. Sì, Il mondo dei non vivi, poi magari torneremo anche a parlare su questo pezzo. E diciamo che appunto Calliope, Elettra e Calliope vede anche questi due pezzi, diciamo, riveduti e corretti comunque, sì, rispetto alla prima versione. Perché ci sono canzoni, essendo un quello che si dice oggi, non sono parole che mi piacciono molto, nel senso che le trovo limitanti, ma essendo io quello che si chiama prodotto di nicchia, spesso ci sono delle canzoni all'interno dei tuoi dischi che sono magari pezzi molto importanti a sentirli, ma che non la massa, la gente, il grosso della gente non conosce, ovviamente, perché rimangono un po' più nascosti, sì, tra le righe. E mi è piaciuto riprendere quelli che mi sembrava avessero una grossa connotazione, una grossa impronta, una grossa cifra forte di quello riguardo quello che io scrivo. Bene, ci prendiamo un po' di pausa per ascoltare un altro pezzo da disco che poi torneremo a commentare insieme, e quindi diamo spazio a Database. Tramonti all'orizzonte e voglio attenzione d'un futuro, scoprire linguaggi particolari e sogni e viaggi a costo zero. Cerco l'H per capelli e idee rivoluzionarie, dal riverbero universale e intriganti storie. Cerco un posto fisso al sole dove stendermi le ossa e una nuova convenzione da seguire tutti quanti in massa. Luna, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E allora amici, eccoci qua, sempre Blu Radio Sera su Blu Radio Veneto, ancora i saluti da Francesco Galante, ma anche da Flavio Bilato, ma soprattutto dal nostro ospite d'eccezione che è qua con noi e che ci sta veramente regalando dei bellissimi momenti musicali e dal vivo e da disco, stiamo parlando di Andrea Mirò. Ciao. Allora, buonasera a tutti ancora una volta, siamo appunto con Andrea per ascoltare pezzi del suo disco, ma anche perché no, durante la trasmissione vedremo di trovare anche qualche altra canzone nel passato che ti ha, come dire, reso famosa e soprattutto hai conquistato il pubblico con sì. quei pezzi. Allora, abbiamo ascoltato comunque questo Database, che è una canzone da un'intensa abbinatura di rock melodico. Sì. No, con dei tramonti all'orizzonte, un personaggio che sta riconsiderando un po' quello che è il suo futuro, sta scoprendo linguaggi particolari, viaggi a costo zero. Tutto sulla rete. Tutto però. Sulla rete, ecco, praticamente questa è l'immagine di un uomo che si rapporta nel virtualismo. Sì. Sì, perché la rete non è soltanto un mezzo di comunicazione. È qualcosa che ha totalmente cambiato la faccia della società, i nostri rapporti, le nostre comunicazioni. Non è soltanto l'ultimo modello di telefonino, è qualcosa che veramente ha ribaltato tutto quello che sono i rapporti sociali, lavorativi, cioè in tutto e per tutto. E mi sembrava un argomento, cioè perlomeno un argomento che mi colpisce molto, un po' perché io sono per certi versi ancora un pochino analogica e anche perché, voglio dire, la mia generazione è di quella che ha ancora avuto tra le mani, ecco, ha avuto il piacere, diciamolo, sì. di avere tra le mani quelli che si chiamano i vinile, forse i più sì, giovani sì. non sanno esattamente. No, la nostra la generazione. La nostra generazione, va bene, mi allargo. E quindi vinile e tutto quello che concerne l'analogico, diciamo. E quindi... Tipo il famoso telefono della SIP. Bravo! E quindi c'è questo, che non è nostalgico, è proprio un bel ricordo. Il fatto di avere una grossa opportunità come la rete è ovvio che... È una come dire, un'apertura sul mondo, una finestra sul mondo enorme, è una grande veramente opportunità, secondo me. Penso che ci sia molta gente però oggi, per così come è la rete adesso ormai, quindi entrata in tutte le case a tutte le età eccetera, ci sia anche molta gente che non è, credo, in grado del tutto di gestire questo immergersi nella sì. rete, a volte ne rimane diciamo che è molto intrappolata. Pericoloso, sì, beh, rimane sì, intrappolata, può esserlo, sì. ma anche proprio psicologicamente, sì. senza dover tirare... E saperlo gestire non è da tutti, esatto. diciamo. Ecco, quindi tu hai fatto un riferimento al vinile, quindi un 33 sì. giri, lato A e lato B, proprio come sta succedendo esatto, all'interno di Elettra e Calliope. Un po' può essere questa l'immagine che si può avere di quindi questo disco. Quindi uscirà anche in vinile? Sarebbe bello. Sai che ci sto pensando, ma non per questo disco, perché ormai questo disco è uscito, quindi è un mese, però comunque le cose sono, i giochi sono fatti. Ecco, se dovessi pensare al mio prossimo lavoro, penserei sicuramente di metterlo in rete e poi non passare più dal CD, sì. ma direttamente al vinile, numero di copie limitato. Tiratura limitata, sì, sì, sì. Però hai presente le copertine del vinile? Sì, sì, ecco, sì avete presente? Sì. Sì. Poi ti facciamo vedere il nostro archivio. Cioè, ragazzi, è un altro mestiere. È un altro mondo. Allora, parliamo del lato A ancora una volta. Abbiamo detto Elettra, questo influsso pop rock molto, molto forte. Abbiamo ricordato prima come è stato anche registrato, proprio sì. in presa diretta. Sì, sì. Vi siete trovati, dai, ci i vostri siamo strumenti, trovati, io i vostri ho fatto posti. Sentire le canzoni una per una ai ragazzi, abbiamo deciso da cosa partire e poi siamo andati. Ecco. E siamo andati di là, abbiamo iniziato a cercare la strada su magari qualche indicazione mia, poi ognuno. La cosa bella di lavorare col gruppo, e sono ragazzi che io conosco ormai, con cui lavoro da più di 10 anni, è che c'è una grossa intesa, c'è una bella alchimia e quindi l'apporto che ognuno può dare è decisamente rilevante. E infatti nei crediti del disco c'è scritto prodotto da Federico Bianchi, che era diciamo la persona aggiunta, che è stato il fonico, l'ingegnere del suono di questa parte. Il famoso quinto elemento. Bravo, stavi quinto così. Elemento, sì. e dalla band, con la band, perché era giusto che loro fossero citati nella produzione, la produzione vera e propria artistica dei pezzi. Bene, ricordiamo i nostri ascoltatori che sono sempre collegati con Blu Radio Veneto, ancora con Flavio Bilato e Francesco Galante ai microfoni. Una piccola pausa riservata al live, Francesco. Eh sì, adesso ascoltiamo un altro bel pezzo. Che Andrea, che cosa ci fai sentire? Allora, nessuno tocchi Caino, vediamo, se non sbaglio, che partiamo da quello, partiamo va bene, quello? Dai, partiamo da quello, sì. Dai, poi ne parliamo. Benissimo. Nessuno tocchi Caino, Andrea Mirò live dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Io sono l'uomo che non volevi, sono più di tutto quello che temevi. Domattina sai che ti porterò al di là dei tuoi stessi pensieri. È tutto pronto perché non sbaglio, ho curato fino al minimo dettaglio. Quando punterai gli occhi dentro ai miei, io saprò sostenere lo sguardo. Il mondo non passa da qui e non mi importa più di me. Troppi giorni chiusa ad aspettare che si allargasse il cielo e scendesse su di noi una mano e un gesto di pietà, una mano e un segno di pietà. Il corridoio si stringe ancora, lo dovrai vedere solo per un'ora. È lavoro mio, è la vita mia, a eseguire il destino si impara. Ma non mi scordo del primo uomo, ho bevuto per non chiedergli perdono. Non moriva mai, non finiva mai, ma ti abitui a tutto, non lo sai. Il mondo non passa da qui e il mio pensiero è andato via, oltre a queste sbarre fino a casa mia. C'è lo stesso cielo che domani avrà una firma e un gesto di pietà, una mano e un segno di pietà. Tutto è compiuto perfettamente, oramai qui non si sbaglia quasi niente. Controllate voi due minuti e poi io potrò tornarmene dai miei, perché anch'io ho moglie e figli miei. Il mondo non passa da qui e la mia anima è già via, e dall'alto guarda fino a casa mia. C'è lo stesso cielo che domani avrà una croce, un gesto di pietà. Io sono qui e la mia anima non è solo un numero appoggiato su di me, è una luce bianca andata dove sa, tra le stelle, un gesto di pietà, oltre il cielo dove c'è pietà. Thank you. Olè. Eccola qua, beh, veramente anche questa, molto molto bella. Ricordiamo il titolo: Nessuno tocchi Caino. Allora, era il 2003. Bravo. Ecco, tutti se lo ricordano perché a Sanremo c'è stata questa canzone. Tu sì. eri con Enrico Ruggeri. Eravate voi e il brano ha partecipato al festival. Come si è piazzato? Siamo arrivati quarti, ecco, anche se sì. ci sono dei dubbi sulla. Sì. Ma questi ci sono tutti gli anni. Sì, certo. Non andiamo a rimembrare troppe cose. Non è il caso, non importa. Ma l'esperienza. Scusa, io non mi ricordo. Ma si votava anche da casa? Non mi ricordo se si votasse già da casa. Diciamo che le giurie di qualità, le giurie quelle lì, insomma, sì. hanno fatto il loro mestiere, però anche non volevi chiamarla di qualità tu. Ho sentito. Ma sai, perché sì. molto spesso si chiama giuria di qualità e dentro ci sono personaggi noti dello spettacolo che però non c'entrano niente con la qualità della musica, nel senso che fanno tutt'altro mestiere. Sì. E quindi hanno dei loro criteri di valutazione che sono il piacere personale di sentire determinati pezzi piuttosto che altri, quindi gusto personale. E quella non è una giuria di qualità, no, certo. quella è una giuria di gente dello spettacolo e dovrebbe essere chiamata così. Ecco perché non volevo dire sì, di qualità. Assolutamente ci trovi concordi in questo, anche perché molte volte noi cerchiamo di stilare nel nostro intimo quella che potrebbe essere la classifica del vincitore, la vincitrice di Sanremo. Ecco, ma non sarà mai. Esatto. Però riusciamo a riconoscere quelli, i pezzi che invece faranno Potrebbero. Strada nel certo. tempo. C'era Casella che diceva di indovinare sempre. Giuca Scasella. Sì, però vabbè. Ha dimenticato anche la sua età. Tornando al 2003, fu una cosa particolare perché Nessuno tocchi Caino fu scritta da me e Enrico, ma non c'era l'intenzione di fare Sanremo. Fu Baudo che sentì di straforo il pezzo a Roma tramite il manager in quel momento di Enrico e che volle a tutti i costi il pezzo a Sanremo, perché Baudo puntava ovviamente ad avere o tematiche forti o situazioni che potessero far parlare, e Nessuno tocchi Caino è una canzone che indubbiamente aveva questi criteri. Però il fatto di essere due artisti che lavoravano abbastanza ancora a stretto contatto, e in più di avere una come posso dire di essere anche un po' conosciuti al di là del nostro mestiere ma nel gossip come coppia, ci lasciava molto perplessi. Allora ci confrontammo con l'associazione stessa, Hands of Cain, Nessuno tocchi Caino, che aveva appoggiato questa cosa, perché noi abbiamo, quando abbiamo dato il nome al titolo al pezzo, li abbiamo chiamati, e Sergio D'Elia ci disse: sapete cosa c'è? È che noi molto pragmaticamente a noi non interessa se viene cantata in piazza, se viene cantata sul palcoscenico dell'Ariston, se viene mandata in onda a livello internazionale. A noi interessa che se ne parli di questo, perché è un tema troppo importante di cui parlare, e quindi fatene quello che volete. E a quel punto abbiamo detto: beh, forse siamo anche liberi di cantare una cosa del genere, di portare a Sanremo anche, cosa che non succede spesso. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso. Mi viene in mente Silvestri, mi viene in mente più di uno, adesso non sì, ce ne sono molti, ce ne sono stati molti momenti particolarmente sì. importanti sul palco dell'Ariston, che poi sono arrivati settimo, ottavo, ultimo, non importa, ma non è quello, è che comunque l'Ariston è sempre un palco che ha un certo appeal dal punto di vista della visibilità, e certo. quindi la cosa importante era parlare di un tema certo molto forte, però devo dire che la gente ha recepito molto bene, forse più degli addetti ai lavori, perché i giornalisti non erano molto preparati su questo, che è un tema che non ha molto appeal sui giornali. Cioè parlare di pena di morte, insomma, è un po' scomodo, un po' difficoltoso, non c'è qualcosa di meglio, ecco, ti senti dire, no? E invece è lì che bisogna parlarne. Che bisogna parlarne, assolutamente. Quindi diciamo che la tua carriera, come dicevi tu prima, era sempre stata legata al nome di Ruggeri. Beh sì, diciamo che il grosso del lavoro che ho fatto in tutti questi anni, nostro malgrado, perché poi sai, quello che fai tu quello che è il tuo metro non è quello di tutti gli altri, qualcuno capisce, qualcuno un po' meno, e allora l'affrancamento da una figura come Enrico non è stato facile. Questo mi piace dirlo, perché a volte io ho sentito gente che storceva il naso, come dire, sì, però tanto lei è la fidanzata, quindi, come dire, può darsi che abbia una facilità in più. A esattamente il contrario. Assolutamente. Un giorno sì, Fabio Volo mi intervistò, faceva una trasmissione, se non sbaglio, su quello che era la 7, comunque parliamo di 10 anni fa, e mi disse, ma qual è stato il vantaggio? Cioè, quanto è il vantaggio di essere... Ma lui è stato un po' cattivo in questo, no? Beh, forse voleva pizzicare, però volutamente, sì, provocatoriamente. E io risposi, al 50%, il 50% di vantaggio forse. Oggi, con la storia che ho alle spalle, io ero all'inizio, potrei dire l'80% di svantaggio e il 20% forse di... normale, vantaggio normale, se mai si può chiamare vantaggio, di strada, di semplicità, ecco. Bene, allora abbiamo imparato sempre qualcosa di nuovo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Andrea Mirò, è venuta a trovarci qui a Blu Radio Veneto per presentarci il suo nuovo lavoro datato 2012, Elettra e Calliope. Allora, un altro pezzo da Elettra e Calliope, scendiamo quale lato? Allora, parliamo un po' di Calliope, dai, facciamo un po' sentire le sonorità di Calliope. Sì, allora sentiamo le sonorità di Calliope in un pezzo che senza che nulla cambi, direi. Senza che nulla cambi, dai. Però non nella versione normale. No, nella bonus track, bravo. Bravo, sì, ecco, grazie. No, perché poi ricorderemo, questa canzone è stata, diciamo, sì, incisa due volte. La prima ci sono solo io, sì. Nella seconda c'è un ospite. Bene. Vuoi parlarne adesso? No, parliamo dopo. L'ascoltiamo intanto. Okay. Bene. Sarà svegliarmi, alzarmi piano, pensare in fretta, congedarmi senza che nulla cambi. Immaginavo fosse questo come un rituale primitivo, i gesti sembrano importanti, normali. Tutto è perfetto, tutto è qui, lasciarsi in fondo è un po' così, che non c'è tempo di spiegare per quel che vale. Prezzi bassi, tintoria tentatrice, la storia si ripete, il ciclo delle camicie, e la notte non vedo lo sporco e sto sereno, al buio bene e male non li distingui nemmeno, sono distratto da altro, dal gatto, dal corso alternativo del fato. E alle 4 mi rendo conto di non aver mai preso una posizione, e sento freddo, avere il corpo è una punizione. È la stanchezza o fa un po' freddo? La colazione è sempre uguale, vestiti pronti per l'ufficio e il pane. E per un attimo ricordo un volto, potrei rischiare di tornare indietro e ripensarci ancora. Ridisegnare forse la mappa della vita, il campionario delle scene costa fatica, e la mia testa è un campo in cui pensieri cavallette inghiottiranno per intero le traiettorie della mente. Anche in amore, prima dello sfratto, tre avvisi, dopodiché sei statistica della crisi. L'inquadratura si stringe a non finire su di me, che però non ho più nulla da dire. Quasi tutti non valiamo la pena, nel dubbio ti leggo a sufficienza la schiena. Se non vuoi farlo per te, fallo per me, che sono un anello di congiunzione perso sul set. Persa fuori, guarda. Polare, persi solo basso, due non bastano, tre sono ancora pochi, quattro un numero pari, cinque l'orario in palestra, sei aprile un giorno come un altro. Sarà svegliarmi, alzarmi piano, pensare in fretta, congedarmi senza che nulla cambi. Il mio futuro non è qui, senza che nulla cambi. Le cose se ne vanno senza che nulla cambi. Il mio futuro non è qui. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E la nostra serata continua a essere bella, colorata con la musica di Andrea Mirò e quindi Flavio ti ridò la parola. Sì, allora Senza che nulla cambi è la prima parte di Calliope, sì, no? Questo, l'inizio è un brano, l'inizio ma anche la fine. La fine. E noi abbiamo ascoltato la fine. L'alfa e l'omega. Sì, l'alfa e l'omega, benissimo. E allora è un brano che parte con un'atmosfera rarefatta e con la tua voce molto sottile, calibrata nell'aria, possiamo dire così, e che è appunto la linea di confine, è la storia di due che si lasciano, ma no, che direi che più che la storia di due che si lasciano, direi che è una, è più lei che ha due chiavi di lettura. Qualcuno ci legge lei che se ne va o che sta prendendo una decisione quindi forte sulla coppia. E in realtà nella mia testa il film era molto legato a un libro che a me è piaciuto molto un po' di anni fa, di Michael Cunningham, che è Le ore, di cui è stato fatto un bellissimo film, dove Julianne Moore faceva questa donna che se ne andava via, lasciava la famiglia, i figli e tutto, perché si sentiva oppressa da questo ruolo, ma era una cosa molto profonda, molto dolorosa, e quella figura mi è sempre rimasta impressa, e questa canzone è un po' per me la colonna sonora di quella parte. Era un film ed è un libro diviso in tre parti, e quella figura era per me quella faccia, quei momenti del film sono questa canzone nella mia testa. Però lascio sempre che gli altri ci leggano quello che vogliono, perché poi le canzoni, detto tra noi, io posso avere la mia chiave di lettura, ripeto, l'artista le scrive con questo intento, però è bello che quella storia che tu scrivi possa essere trasfigurata dagli altri in quello che loro vedono nella loro vita, nella vita degli altri vicino a loro, nelle esperienze che vorrebbero, in quelle che hanno fatto, cioè che racconti qualcosa che parli di loro, ecco. Secondo te i giovani ascoltano i testi delle canzoni? Che domanda difficile. Ma no, che pubblico hai che ascolta? Artista, dimmelo, perché così mi regolo. Diciamo di buon livello, di buon livello. Allora, da un certo punto di vista è diventato fondamentale che in lingua italiana si parli all'interno delle canzoni, che si dicano delle cose. Pensa soltanto al percorso che ha fatto uno come Jovanotti, no? È proprio fondamentale, perché la lingua italiana lo vuole. E pensa soltanto quante cose in inglese noi conosciamo che a volte traduce e dici mannaggia, solo questo, c'è solo sì. Questo dentro, ecco, noi abbiamo fatto la storia del cantautorato insieme ai francesi che sono i nostri maestri, e il cantautorato è in tre lingue fondamentali nella storia, chiamiamolo, della musica leggera: il francese, l'italiano e il portoghese. Poi c'è un bacino di inglese dove ficchiamo dentro Leonard Cohen, Dylan, Tom Waits, non lo so, ce ne sono, eh? Certo. Però ecco, diciamo anche che il bacino in lingua inglese è enorme. Infatti, hai citato molti artisti americani anche in questo, sì. Per cui noi invece la nostra è una striscetta piccolina. Quindi abbiamo fatto delle cose grandiose. Ed è un percorso che ancora oggi ci portiamo dentro. È inevitabile che si debba parlare. Cioè, non puoi dire tante stupidate dentro le canzoni in italiano. Non so come dire. Sì, puoi anche dirle, però si sente fortemente. C'è un limite, no? Naturale. Quindi c'è questa grossa necessità, che è storica, che è sociale, che è, chiamala come vuoi. E dall'altra parte c'è una, oggi un accesso alla musica, non il possesso che parlavamo prima di vinile. Sì. La differenza tra la nostra generazione e queste nuovissime è questo, no? Il possesso, che per noi era quello, l'oggetto, il libro, eccetera, e oggi l'accesso, cioè poter scaricare e via. E quindi questo consumo non ti permette di fare in modo che i concetti, le parole, tutto quello che c'è dentro una canzone possano stanziare dentro la tua memoria. Le canzoni vengono sentite e non ascoltate. Bravissimo. Che è una cosa un po' diversa. Però ci sono anche ragazzi che hanno, forse anche a cui è stato dato la possibilità di ascoltare e di capire che le canzoni o che la musica può anche essere fruita attivamente, non passivamente. Quindi essendo lì a leggerti il testo o pensando che cosa ti può raccontare. In effetti all'interno del libricino ci sono i testi proprio. Ma ci ho pensato prima di pubblicarli. Cioè ho pensato un po' di volte, cioè, abbiamo pensato a tavolino, ma li scriviamo, li metto solo in rete, perché ormai è talmente volatile tutto, no? tutto quello che esce musicalmente. Sì, beh, no, io ritengo che sarebbe giusto se uno fa un CD fisico, materiale, sì, che ci certo. siano, perché e infatti poi se alla no, fine ho detto ma perché no, se no quando ti capita e mi capita di prendere un disco e ce l'ho in mano, tiro fuori il libretto, bravo, non c'è niente, e tu sei anche ci tu resto della, male. Della ci generazione resto male. Del possesso, sì, cioè sì, di sì. quello che vuole ancora attivamente prendere in mano, comprarsi il disco, aprire, cioè è la gioia del momento. Eh sì, ma è un rito, è sì. un rito, ragazzi, è sempre Fantastico. Stato un rito, sì, come sì. il rito andare a prenderti. È arrivato il libro del Tal dei Tali, ah no, aspetta, beh, lo ordiniamo, cioè questo non è l'ebook, è questo che sta cambiando. E un po' penso che noi dobbiamo cambiare atteggiamento, nel senso che dobbiamo essere aperti, solo che ti dispiace lasciare. Sì, sì. Sarebbe bello tenere tutte e due le cose. Tu dicevi adesso, hai usato molte volte il verbo cambiare, no? E in questo pezzo senza che nulla cambi, però tu l'hai cambiato alla fine, quindi sì. nella parte alfa, come abbiamo detto prima, c'era il senza che nulla cambi, nella tua versione, quella diciamo che hai sentito, che è la mia, nella mia tua versione. Postazione sonora, sì. non so, davanti a una finestra, non so. Magari ti chiederò anche poi come... No, in realtà c'ho una stanza in particolare dove più che altro mi eclisso dal mondo e dagli altri, perché ho due bambini non tanto grandi, quindi spesso devo proprio serragliarmi dietro la porta. E anche farlo a ore tarde. Certo. E l'ora tarda concilia molto un certo tipo di atmosfera. Soprattutto con l'atmosfera che abbiamo sentito nella prima fase. Però hai inserito un qualcosa, diciamo, di nuovo, forse i tuoi ascoltatori non se l'aspettavano. Sì, infatti. Hai inserito un rapper a cantare con te. In realtà non è questa il percorso. Il percorso è stato finito il disco, in sede di master, eravamo... lì tutti e tre, io e il fonico, anzi tutti e quattro, e gli altri e i due produttori, e il produttore Marco Zangirolami, che è il produttore della parte di Calliope con me, mi dice: guarda, mi ha chiamato D'Argent Amico. E io dico: ma come? Sì, quindi io lo conosco di nome, non sono una frequentatrice dell'hip hop, proprio così, cioè sì, lo conosco, ma non so che è molto stimato, e so che è uno dei, diciamo, della frangia, come dire, i cantautori nell'hip hop, cioè quelli che hanno semplicemente, sono più giovani, hanno scelto quel linguaggio piuttosto che quello classico, tra virgolette, e quindi è uno molto in gamba. E mi ha detto: sì, perché non te l'ho detto, ma l'altro giorno lui è passato in studio e io ho detto: guarda, ho appena finito questo disco di Andrea Mirò, ti faccio sentire perché secondo me è molto interessante, senti qua, sente i pezzi ed è impazzito. E allora l'ha chiamato e ha detto: io voglio fare una voglio rappare, voglio fare un intervento, anzi due, perché quello che abbiamo sentito sono due, su questa canzone che mi fa impazzire, chiediglielo, ti prego. E lui non aveva avuto il coraggio di dirmelo subito in sede di master, quindi eravamo lì, stavamo chiudendo il disco, perché poi finito è finito, punto. Io ho detto: bene Marco, o andate adesso, lo fate oggi pomeriggio, oppure come facciamo, cioè non abbiamo molta alternativa. Pronti, è andato in studio, l'hanno registrato, io penso che l'ho sentito dopo in realtà, quello che lui ha cantato, però è stata un'alchimia perfetta di due persone che direttamente non si conoscevano, e questo te la dice lunga sul fatto che ci sia, quanto sia bella il fatto istintivo all'interno di questo lavoro, e quanto sia fondamentale e quanto sia raro, te lo posso garantire, perché generalmente i featuring, come si dice, sì, le collaborazioni sono a tavolino generalmente, no? E sono, cioè, anche successive, discografiche, produttori, sì, si parlano, no, però quello lì è, ma quello ha più appeal sul ghost, no, quello se ne parla di più, dai, quello più forte, quello più famoso, quello più... E quindi invece questa è stata una cosa totalmente spontanea. Io quando ho sentito il risultato ho detto ok, non posso non inserirlo, lo mettiamo, la metto come bonus track, ma la metto, perché lui ha capito perfettamente quello che io avevo inteso all'interno di quel pezzo, e l'ha scritto e ha inserito due parti scritte che sono il suo modo di vedere e il suo linguaggio, la sua cifra. Bene, è tempo di musica. Sì, Flavio, è tempo di musica. Sì. Volevo dirti, facciamo un passo indietro. Era il lontano 2009, non so, sto dicendo, 3 anni fa circa. Tu uscivi con un disco. Che era La Fenice. La Fenice. Da questo disco c'è un pezzo che vorremmo ascoltare live, sì, fantastico. Ok, va bene, lo faccio. Come si intitola? Prima che sia domani. Eccola qua, Andrea Mirò a Blu Radio Veneto. Prima che sia domani, brinderemo ancora un po' con noi, ci racconteremo già sapendo che una fine prevedibile, una cosa naturale. Prima che sia domani, avrò riascoltato dentro me tutte quelle futili parole sull'amore che non muore. Ora penso che dovrei abituarmi già all'idea, prepararmi alla tua assenza come pure tu alla mia. Quale bacio ti risveglia, quale donna ti assomiglia, quale passo si allontana mentre dormi ancora un po'. Quali sono le parole? Prima che sia domani, devo fare posto a casa mia, pacchi di ricordi da incartare e risate da buttare via. Quando non sarai più qui a decidere di noi e restare ancora svegli e non sapere come mai, e nel tempo che rimane fare spazio alla ragione, cancellare quelle parti di una storia che non c'è, in un giorno come un altro, e non illudermi, non mi convincere, lasciami così, tanto avrò pianto ormai tutte le lacrime che si piangono. Prima che sia domani, prima che sia domani, ora penso che dovrei abituarmi già all'idea, prepararmi alla tua assenza come pure tu alla mia. Qualche sguardo, una dolcezza, qualche inutile carezza per riscrivere il finale di una storia che non c'è. Quale bacio ti risveglia, quale donna ti assomiglia, il mio passo si allontana mentre dormi ancora un po', in un giorno come un altro, prima che sia domani. Prima che sia domani. È Eccoci qua, oh, bella anche questa canzone straordinaria, Andrea Mirò, ci piace sempre di più, poi dal vivo proprio, non so, a me mette anche una certa tranquillità addosso. Ma dai. Sì, è una sensazione. C'ho un futuro anche. Lei, hai mai provato, quando canti per i tuoi bambini, non so se canti. Sì, hai però detto che i bambini no, veramente me la cantano loro, perché soprattutto la più piccola, che non ha ancora 2 anni, ma che canta continuamente, anzi, ho mio da fare tenerla zitta. Fa ascoltare la canzone. Fantastico. Allora, La Fenice era l'album del 2009. Com'è cambiata la carriera artistica di Andrea Mirò? In stiamo quegli parlando anni, di una differenza di 3 anni. Sì. Io credo che di avere fatto, questo è il 7° disco, e che si possa percepire un gradino per volta, ecco, un gradino in più, cioè una coscienza in più sia all'interno dei testi che nel taglio dei pezzi, delle canzoni. Nel senso che la mano poi è sempre la mia, e si percepisce, credo. Secondo me c'è sempre più a fuoco quello che voglio dire e l'obiettivo che mi sono prefissata, a volte anche più fortemente, chiamiamolo alternativo, comunque particolarmente di rottura, ma è questo che mi piace, perché poi fondamentalmente il ruolo che mi sono sempre sentita e ritagliata nella vita è quello del bastian contrario, non c'è verso, cioè non è sempre stato così. Tutti vanno di là e io mi volto e vado dall'altra parte, è inevitabile. Benissimo, questa è la carriera per un successo alternativo. Esatto, assolutamente, il famoso successo alternativo. Bene, allora abbiamo parlato del 2009, torniamo un attimino indietro, abbiamo già citato il tuo album del 2001 che ti ha segnato il vero e proprio, diciamo, debutto artistico da un punto di vista di creazione anche di album propri, quindi Lucidamente. All'interno di Lucidamente c'era anche un pezzo, una cover di un grande artista, Jackson Browne. Sì. Come mai hai deciso allora, attenzione, la cover era la cover sul pezzo di Nico, che lei scrisse con Jackson Velvet, Browne. Perché io ho una timbrica vocale particolarmente medio-bassa. E chi conosce Nico sa come canta le canzoni anche lei. Sì. E quindi mi piaceva omaggiare anche un personaggio che è anche lei comunque di nicchia, se vuoi. Certo, a livello internazionale è stato un personaggio indimenticabile secondo me. Sì, anche per il divorzio dei due protagonisti dei Velvet Underground. Esatto. No? Quindi... come dire, mettiamo insieme un gruppo, chi c'è? Ma uno che si chiama John Cale, l'altro che si chiama Lou Reed, poi c'è una chanteuse che parla alcune lingue, bellissima, ex modella, che scrive anche, suona l'armonium, si chiama Nico. Questo erano, mannaggia, Andy Warhol se n'era accorto subito, così giustamente. E quindi era un omaggio a un personaggio anche poco frequentato, se vuoi, nella storia, per una canzone, The First of the Seasons, è incredibilmente bella, era estrapolata da un disco che si intitola Chelsea Girl, di Nico, e in stato di grazia secondo me. Ed è stato uno dei tanti omaggi che io ho fatto. E questo è un disco, per esempio, Elettra Calliope non ha una cover dentro, però io spesso ho frequentato le cover e quasi tutti i dischi ne ho inserita una. Allora, per parlare di tutti quelli che sono stati gli artisti che un po' hanno contribuito alla tua formazione artistica, qui mi ripeto, quali possiamo citare oltre appunto Jackson Browne piuttosto che Nico? Difficile, cioè è un elenco che va da Bach ai Metallica, quindi pagine bianche. Cioè, no, è incredibile. Guarda, è impossibile dirlo. Ti posso dire 2 o 3 nomi che mi vengono in mente al volo: Joni Mitchell, Lori Anderson, cose molto diverse peraltro una dall'altra, Joni Mitchell, Lori Anderson, Genesis, i Genesis, quelli con Peter prog, Gabriel, il primo prog, esatto, e che altro, Tom Waits, quindi andiamo da esperienze folk, esperienze David elettroniche, Bowie, di tutto, Roxy Music, cioè c'è un po' in lungo e in largo, direi, ma infatti qualcuno mi chiede ogni tanto, ma qual è la tua icona anche vocalmente, cioè no, qual è il personaggio a cui ti sei rifatta, perché molto spesso insomma c'è il tuo preferito, il gruppo, piuttosto che poi nelle donne spesso, perché vocalmente, e dato che io non ho questa, perché mi sono sempre rifatta, poi alla fine se ci penso l'elenco è quello di cantanti maschi, cioè di uomini, forse proprio perché io ho questa voce molto da Lina Volonghi, e allora i più giovani non sanno chi è, comunque una con la voce bassa, e quindi non mi è mai interessato molto il, per esempio il virtuosismo vocale, non mi è mai interessato il fatto che essendo donna avrei dovuto espormi con delle altezze vocali, no? Note altissime, senti qua dove arrivo, eccetera. Non me ne è mai fregato niente, per me la voce è un mezzo di comunicazione, quindi mi appartiene, non mi interessa educarlo più di quello che mi serve. Mi serve per dire delle cose, per me è uno strumento come il piano, come la chitarra, come lo uso nello stesso modo da questo punto di vista, per me ha lo stesso valore. Chi avrà la voglia di ascoltare questo disco, Elettra e Calliope, capirà anche quelle che sono le tue vocalità, poco urlate, però sì, decise allo stesso tempo. Sì. Allora, Elettra e Calliope, questo nuovo album del 2012, un altro pezzo da disco, in questo caso abbiamo scelto, e poi lo commenteremo insieme, L'incantatore di serpenti. Io direi di sentirlo, poi ne parliamo. Benissimo. Un altro mattino solo, sulla stessa strada, un'altra volta ancora, ripeto il mio percorso, il senso delle cose mi sfugge come il fiato bianco in questo freddo, l'ultimo avamposto, ma è mia questa foglia di vita, masticata a fatica. Semplicemente mia, la suggestione che ancora mi trattiene è misurarmi con me. Troppe visioni, troppi sogni, un uomo che cammina lento, senza cinismo né decisione, anacronistico per ribellione e socialmente indigesto. E allora serve un pretesto per tenerlo sempre a distanza, che non disturbi, che stia al suo posto. Sono io questa merce fallata, la sconveniente perdente, fastidiosa realtà. Dormite sonni tranquilli, non son previsti circhi itineranti e l'incantatore di serpenti non arriverà. Voglio vedere quanto posso, quanto posso sopportare, quanto puoi interpretare l'universo di volti che si avvicina, indovinare quel che pensa mentre guarda dritto gli occhi. Io che sono come forse sono, l'universo di volti che si avvicina e ti nasconde come pensa e non ti guarda più negli occhi. Io che sono solo un uomo senza maschere, chiaro come neve spazzata via. Circhi itineranti e l'incantatore. l'odore di serpenti non arriverà. Sera. Blu Radio Sera. Era l'incantatore di serpenti e con noi questa sera c'è Andrea Mirò, veramente, che ci sta Eccomi raccontando qua. Un po' tutta la sua vita. Ho scoperto tante cose. Volevo sapere, ma non mi ricordo più, la mia memoria evidentemente perde colpi, ma anche Primavera Sarajevo l'avevi scritta, sì, insieme a... Sì, sì, sì. Anche è quella, del 2002, vero? Però io non ero sul palco, ero giù che dirigevo l'orchestra in quella occasione. Ah, mannaggia. Molto divertente è stato. Sì, sì. Assolutamente divertente anche recentemente quando ti sei presentata davanti alle telecamere, dirigere l'orchestra Andrea Mirò e tu, tlac! Ho rotto davanti alla telecamera le bacchette del sushi. Del sushi, sì. Mentre qualcuno ancora non sapeva che erano le bacchette del sushi, sì, sì. Ha detto, quindi qualcuno... Me ne ero portata dietro una scorta. Fantastico. Allora, abbiamo ascoltato questo L'incantatore di serpenti. Quindi si inizia con un pianoforte, un'atmosfera molto... molto delicata, rarefatta, sì, diciamo. È una chitarra che poi si inserisce molto aspra rispetto, sì, all'andamento, sì, della, beh, della canzone. È tutto Calliope, ha questo, questo mood, questo suono. L'incantatore di serpenti è come sempre uno di quei personaggi che io amo molto, i cosiddetti fuori, come posso dire, fuori categoria, chiamiamoli freak, quello che vuoi tu. In qualche modo quello che vuole provocare non facendo cose, infatti lui dice non, state tranquilli, mettetevi il cuore in pace, non arriveranno, non ci sono robe da circo qua, non, l'incantatore dei serpenti non arriverà, basta e avanza che quando mi guardate rimanete stupiti perché non faccio parte di quella massa, non sono, ecco, ma è un uomo che vive distante dalla società, non sono politicamente corretto, sì, ecco, sì, sì. Ma io l'ho letta come un uomo che cammina il più lento possibile distante dalla società, certo, forse sì, non è integrato, società, non è un omologato, la società però ha paura anche di questa persona, certo, oltre infatti, a tenerla lontana, sì, e infatti nel testo proprio la seconda parte, perché poi è una canzone anomala come struttura, ha una prima parte e una seconda parte, non ha una zona che puoi dire questa è la strofa, quello è il ritornello, eccetera. Voglio vedere quanto posso sopportare quando voi mi guardate negli occhi, vedere dal vostro sguardo quello che pensate. E la seconda volta dice vedere dal vostro sguardo che non volete farmi capire quello che pensate. Però io so che lo pensate. Benissimo. Allora, linguaggio un po' contorto, merita l'ora di essere ascoltata, noi l'abbiamo fatto e naturalmente se si entra in possesso del disco si seguiranno anche le si parole tramite meglio, sì, il libricino. Ecco, ricordiamo che c'è anche un sito di riferimento, certo, per Andrea, certo, Mirò. Certo, è il www.andreamiro.it che è... come dire, il punto di riferimento e anche per capire quello che succede e tutti i contatti, ma in realtà penso che la parte più dinamica sia Facebook, che dove ci sono le foto, dove ci sono appunto gli spostamenti, dove ci sono man mano le date, eccetera. I riferimenti in rete sono ormai fondamentali per capire che cosa fai e anche un po' qual è l'impostazione, per esempio, di questo disco, quindi l'immagine, l'impatto d'immagine che ha. Perché ogni volta che tu fai un nuovo lavoro immancabilmente cambi qualcosa e automaticamente cambia anche tutto sul sito, insomma, in rete. Benissimo, allora Elettra e Calliope, l'album del 2012 firmato da Andrea Mirò. Torniamo indietro nel tempo, l'anno 2007, ancora una canzone dal vivo. Sì, è una canzone di un disco che è stato molto importante nel percorso. È una canzone particolare che è stata peraltro molto programmata dalle radio, essendo qua in una radio, e, come dire, me ne vanto, perché non tanto perché un pezzo sia particolarmente radiofonico o meno, anzi io generalmente non sono una che sforna pezzi radio, cosiddetti radiofonici, sì. E, però è un pezzo che era molto amato e che io stessa ho molto amato. Allora diamo tempo ad Andrea Mirò di imbracciare la chitarra, e adesso ci ascoltiamo Il vento a fior di pelle. L'amore mio respira in una mano, cinque dita ferme ed una chiave, rinchiuso nel calore rosso di un fuoco acceso. L'amore mio sta dentro un fiore bianco, piccolo regalo dell'estate, profumo nella notte calma di fine agosto. L'amore che non si confonde mai, è forte come il primo giorno, ancora mi sorride, aspetta. E il vento ti porterà da me. E il vento ti porterà. L'amore mio ha lo sguardo puro, limpida corrente sotto il fiume, la goccia che ha scavato a fondo dentro al mio cuore. L'amore che non ti delude mai, dà sempre una risposta e la tempesta non gli fa paura. E il vento si nasconde mai, al gusto antico del silenzio, il suono più perfetto e chiaro. E il vento ti porterà da me. E il vento ti porterà. Sì, c'è bisogno poi con il caldo di questi giorni, un po' di vento a fior di pelle. Sarebbe duopo. fresco, magari. Sì, assolutamente. Ancora sì. Una buona serata, amici di Blu Radio Veneto. Questa è la radio che vi piace, questa è la radio che vi fa sentire la musica. Credo senz'altro meritevole, con Andrea Mirò dal vivo che ci sta tenendo compagnia ancora per poco, perché ormai insomma il tempo sfugge, ma abbiamo la possibilità di fare ancora due brevi chiacchiere e sentire ancora qualche canzone. Sì, abbiamo ascoltato appunto questa Il Vento, una versione per chitarra e voce a fior di pelle, era il 2007, e questo era il tuo secondo album a distanza di quasi 6 anni dal primo, Lucidamente. Ce n'è uno in mezzo, ma è un disco che contiene un live che io ho registrato a Roma al Cube, in un concerto meraviglioso sold out, e di cui fortunatamente ho un documento, nel senso che, anche se pur grezzo, se vuoi, perché noi ci portiamo dietro tutto il macchinario, chiamiamolo così, per poter registrare, per avere comunque un documento. E poi abbiamo detto, ma chi se ne importa, mettiamolo su disco. Ecco, quindi a parte quel momento di inediti, c'è A Fior di Pelle, arriva dopo il 2005, in cui era uscito un altro disco che devo dire forse la seconda parte del mio percorso parte proprio da lì. Si intitola Andrea, e c'è già tutto quel materiale che tu ascolti in questo ultimo disco, come tipi di canzoni, come suono anche. Sei sempre impegnata anche nel sociale, quindi recentemente ti abbiamo visto anche a Padova per una manifestazione di beneficenza, ma hai partecipato anche a rassegne molto importanti, quali Amiche per l'Abruzzo. Beh, quella è stata forse la più importante, se vogliamo citare qualche cosa che riguardi la solidarietà e che abbia avuto una risposta così grande. È stata un'esperienza per tutte noi che vi abbiamo partecipato, veramente indimenticabile, e credo che non sia, oserei dire, irripetibile per come è nata, per come si è svolta e per come quello che la risonanza che ha avuto e come è stata organizzata. Ed è partita da Laura Pausini, che ha chiamato tutte a raccolta e che è sfociata in questo concerto incredibile a San Siro, sul palco che il giorno prima le avevano lasciato totalmente, gratuitamente, i Depeche Mode, con una struttura incredibile, e dal pomeriggio alle 3:30 c'erano già quasi 70.000 persone. E vuol dire, a me è capitato di suonare sia il 1° di maggio più di una volta, Piazza del Plebiscito, cioè di vedere davanti fiumi di gente, quindi dalle 200.000 alle 400.000 persone. Ed è una grandissima emozione, ma soprattutto è che è il posto più bello dove vorresti essere mentre stai suonando, no? Certo. Ma quello di San Siro, oltre al fatto di avere questo come fine, di costruire delle cose per l'Abruzzo, eccetera, dopo il terremoto, fu un'esperienza incredibile dal punto di vista proprio emotivo, perché tutto ciò di fronte a qualcosa che non era un fiume di gente, e quindi a scomparsa, diciamo a perdita d'occhio, come si dice, ma tu vedevi perfettamente quest'onda gigantesca che si ergeva davanti ai tuoi occhi. Ti sentivi un po' astronauta? Orco Giuda, altro che astronauta, anche lì, portatemi via, cioè nel senso, troppo bello, troppo incredibile, bello. Cioè il cuore che batte a mille. E poi invece cosa diciamo di quel progetto che ha visto protagonista la musica francese, La Belle Équipe? La Belle Équipe è un progetto che tuttora ogni tanto ci troviamo, io, Gian Gilberto Monti e Alberto Patrucco, che siamo tre amanti degli chansonnier francesi, e che portano in giro questa cosa che è una via di mezzo tra il teatro, la comicità, la musica, live ovviamente, e un misto. E soprattutto dove si capisce, si percepisce perfettamente attraverso la storia della musica francese quali sono i papà di tutti quanti noi che scriviamo musica in Italia. Quindi oggi c'è Alain Bashung, per esempio, piuttosto che Serge Gainsbourg. C'è Brassens, c'è tutti quelli che di grande la Piaf di cui sì, tutti che tutti credono grande cantante incredibile, grande cantante sì, incredibile sì, donna nella storia della musica e anche cantautrice, nessuno lo dice mai. No, è vero, ma in effetti però la musica francese ha molte presenze maschili. Certo. Poi, però sì, già la Francia per chiudere questo siparietto sulla musica francese poteva insegnarci qualcosa, perché negli anni 50 una come Marguerite Monod, con cui scriveva i pezzi per esempio la Piaf, era un personaggino dove grandi della musica, uomini, andavano in ginocchio a chiedere musiche, era un dio in Francia, e questo la dice lunga sul fatto che loro fossero già, come dire, dove il ruolo della donna fosse già un pochino più avanti che non qua in Italia. Bene, allora torniamo musica. Ad ascoltare Sì, torniamo ad ascoltare ancora qualcosa di Elettra e Calliope. A questo punto diamo spazio anche a un brano che si intitola L'Uomo del Faro. L'Uomo del Faro con noi a Blu Radio Veneto, Andrea Mirò. Forse farà paura l'intermittenza che dà sopra quell'acqua torbida la luce accesa da me, ma la paura è un limite e l'orizzonte è un'idea, oltre la mia vertigine e l'immaginazione che scruta la notte, sale un rosario di scale che portano là dove vive con me quel profondo e lontano piacere che soltanto io conoscerò, così simile a un dio che ricorda la strada di casa tra pioggia maestrale in assenza di luna, sarà la mia mano che come nessuna conduce da figli, da spose, chi non saprà mai il mio nome e da quanto son qui qual è il mio nome e perché sono qui. Forse farà paura la solitudine mia, dentro al mio mare torbido resto a parlare con me. Se la natura è un limite, ho illuminato una scia che ti accompagna complice a cercare la vita scavando la notte, sale un rosario di scale tra le albe e i tramonti che passano via, tra i silenzi interrotti dal mare che si muove da sempre con me, da sembrare sia io che ho scoperto nel mare una casa tra pioggia maestrale in assenza di luna, sarà la mia vita che come nessuna ha paura del buio tra i sassi alla base, però il mio nome io lascerò qui. Questo è il mio nome, lo scriverò qui. Bene, amici di Blu Radio Veneto, sempre Andrea Mirò con noi, questa serata bellissima con tanta bella musica che abbiamo sentito e dal vivo e dal disco, dal nuovo lavoro di Andrea Mirò, Elettra e Calliope. Flavio, abbiamo poco tempo, quindi vedi di centellinare le domande in maniera opportuna. Saremo stringati al massimo. Allora, l'Uomo del Faro, c'è una visione da questo faro, c'è un uomo che guarda all'orizzonte e cerca è ancora di... un personaggio, oserei dire, come l'astronauta, cioè in un posto privilegiato con in mano il destino degli altri, perché ovviamente fa luce, però... Gli manca il nome. Ma non ce l'ha il nome, anche perché credo che siano ormai sparsi per la Terra, forse li contiamo sulla punta delle dita di una mano. I fari ormai sono tutti... saranno digitali anche i fari. Ma io credo di sì. Sì, ce n'è ancora qualcuno sparso, avevo letto qualcosa anche, ma la cosa che mi piaceva molto era scrivere una canzone su un concetto che mi era rimasto dentro da tanti anni. 20 anni fa, io condividendo in una delle mie, dei miei spostamenti a Milano, in una casa con una giapponese, e lei mi disse una frase in giapponese, ovviamente che adesso non so ripetere, una specie di mini haiku, e la traduzione era: sotto il faro è buio. Me l'aveva detto lei, riferito al fatto che io di molte cose, mentre lei ci teneva a vedere la chiesa a Milano, andare a Roma a vedere quello, a Firenze, ma quindi si sbatteva in modo incredibile per vedere tutto quello che c'era, compreso Milano, che ha un sacco di cose meravigliose, e io tutte le volte dicevo sì, ma sì, Roma l'ho visto, però quello non l'ho visto, poi quello, ma l'avrai visto? No, questo non l'ho visto, ma sai, fino ad arrivare al Duomo di Milano, sarai entrata nel Duomo? Io ho detto No, non l'ho mai visto. E quindi lei disse questa frase, disse: sotto il faro è buio. Ed era una frase meravigliosa, perché come sempre, in modo molto giapponese, hai detto tutto con tre parole. Cioè, tu che sei in un posto pazzesco dove la luce, tu fai luce al resto del mondo, quindi sei Dio in terra in questo frangente, al fondo, ai piedi del faro, però la luce non c'è. Non c'è nessuno. Ed è bello, è molto interessante poterci, come dire, creare una storia su questa frase. Allora, adesso sempre rimanendo all'interno di Elettra e Calliope, passiamo da un uomo incerto, sì, quindi l'uomo del faro, a un uomo certo, o perlomeno che si... Un uomo che certamente si è perso, si chiamerei andata e ritorno dall'inferno. Sì. Stiamo parlando di Faust, liberamente tratto. Sì, proprio... è più l'idea di un uomo che si è venduto l'anima per qualcosa di materiale, per qualcosa che è, come posso dire, era qualcosa che è mediocre comunque. È un uomo piccolo che siamo tutti qua, anche un po' siamo tutti quanti, no? Anche in minima parte. Questo è un uomo che ha venduto tutto e che è tornato... Ha tentato di tornare indietro sulla sua strada, e quello che trova è un uomo fatto a pezzi, difficile da mettere in sesto. Però è alla fine del tunnel una luce c'è, al fondo del fondo. Sappiamo che nella storia poi Faust se l'è portato via Mefistofele. Beh, sì, diciamo che questo finisce con una speranza, perché è giusto che nella catastrofe ci sia una luce da qualche parte. Bene, allora... bisogna crederci. Allora ce l'ascoltiamo, questo si intitola Faust ed è anche il pezzo più lungo dell'interno. Sì, è forse poco radiofonico da un punto di vista, però... Però diciamo... voi siete tra quelli che hanno deciso di fare questo gesto coraggioso. Blu Radio Veneto, non siete gli unici. Vuole essere diversa. Ok. Ok, allora ce l'ascoltiamo. Faust. Per fuggire il destino ed avere di più, ho racchiuso sotto vetro l'anima. La mia mano fremeva, invocando la notte, trascinato dalle correnti vedo riva e mi allontano. E ho mangiato le ore, affamato come mai, consumando senza amore tutto il meglio di me. E ho risposto col ghiaccio al calore bruciante delle lacrime dell'inferno sorridente. E ho fatto passi da gigante inchiodato al suolo, e nudo mi son svegliato coperto d'oro, guardando dall'alto di un castello di sabbia. Potevo sentirmi potente come un dio, prima pioggia, immerso nel fango, al freddo, nel buio. La notte è sembrata non finire mai. Dei sogni rimangono solo brandelli, del mio potere inutile neppure quelli. E ogni singolo giorno che passa, ogni storia perduta che era mia, mi ricordano il pezzo di cuore che ho dato via. Nemmeno una sola carezza che possa salvarmi, o un faro che nella tempesta io possa vedere. Non sento rumori dal mondo, un nodo mi chiude il respiro, ma anche se al fondo del fondo comunque io vivo. Più delle spade, che sia maledetto il mio nome, ma se ancora per poco respiro, anche se al fondo del fondo comunque io vivo. Allora amici, siamo veramente alle battute finali del nostro appuntamento. Ancora un saluto da Francesco Galante, che poi se ne andrà tranquillo a casa a mettersi lì a riascoltarsi ancora il disco di Andrea Mirò, deciso, in pigiama, sì, sì. Pigiama. Bravo. Poi vediamo se si addormentano anche i miei bambini e se ci riusciamo. Poi ti chiamo, Andrea, te lo dico. Ok. Vabbè, allora abbiamo ascoltato anche Faust, quindi battute finali, come ha detto Francesco, per parlare ancora brevemente di questo Elettra e Calliope. Noi, lasciandoci, vorremmo capire anche un po' di più del disco, perché è un disco che parla anche di molte esperienze di vita. E lo vediamo anche in vari pezzi che tu hai registrato, quindi potrebbe essere anche appunto vite parallele, sì, che poi ascolteremo, piuttosto che partono i tram, sì, dove due, sì, persone si guardano da una parte all'altra della del stazione, tram, sì, solo che contrario, uno va a destra, uno all'altro, esatto. Uno va a destra e uno va a sinistra. Ma sono come sempre, sì, sono attimi quando tu sei in giro o guardi dalla tua finestra o sei su un treno o in qualsiasi posto del mondo, basta buttare l'occhio intorno a te e qualche idea ti viene. È bello romanzare tutto quello che vedi. Certo, anche perché all'interno di una canzone, in questa canzone che comunque non ascolteremo, ma invitiamo gli ascoltatori a farlo prossimamente, c'è appunto questo quadro dove due persone che si incontrano con gli occhi poi non si dimenticano, anzi. Forse in cuor loro o nel cervello loro, certo, elaborano anche una possibile e futura, sì, come è più dire, che altro l'occasione d'incontro. Persa, no? Sì. Se vuoi, che peraltro particolarmente frequentata nella letteratura, no? E anche nel cinema. Ognuno di noi ha una cosa del genere. Passati 20 anni, dai, almeno una volta ti è successo di incontrare per un attimo una persona e di dire, però, che cosa aveva che mi ha colpito? Che cos'è? E di farti una storia, no? Il famoso trip. Perché è bello, perché la fantasia, finché c'è, è quello che ci è dato per scappare, è ancora qualche cosa che ci regala grandi emozioni. Allora, mentre in questi tram che scorrono ci sono appunto due sguardi che si incontrano, in vite parallele in realtà non c'è lo sguardo che si incontra, perché c'è la figura di una signora anziana, sì, seduta. È la fantasia di una donna che vede, che ha nel suo come posso dire, nella sua pausa dal mondo, vede se stessa e la sua vita come se fosse stata e cosa sarebbe stato. È tutto Sliding Doors, però di una donna che ha già vissuto. E tutto quello che gli passa davanti non esiste. Non lo turba, non esiste. No, non esiste. Proprio. Era. Questa è veramente vista dalla finestra di casa mia. C'era una signora che andava sempre sulla stessa panchina con le sue borse della spesa, alla stessa ora ogni due giorni, e si fermava e sembrava che avesse lo sguardo perso chissà dove. Probabilmente all'interno della sua routine non aveva. Cioè, io ho immaginato che la sua vita fosse particolarmente piatta e che quello fosse il suo momento personale in cui nessuno poteva entrare. Poteva entrare, giusto. Francesco. Io ti ringrazio. Abbiamo ultimato il tempo. Ti ringrazio, Andrea, per essere stata con noi. Ricordo ancora il tuo sito andreamiro.it, sì, per tutto quello che gli amici vogliono sapere e che non abbiamo ancora svelato, ma io credo, insomma, abbiamo aperto una bella parentesi sulla vita di Andrea Miro. Dimmi, Flavio. Io volevo solo ringraziare Alberto Prisco assieme a Pino, che hanno contribuito attivamente alla trasmissione facendoci entrare in contatto con Andrea Miro. Ecco, e confidando in un futuro, insomma, che tu ci rivenga a trovare, spero presto. E facciamo sentire l'ultima canzone, lo facciamo dal vivo? Sì, lo facciamo dal vivo, quindi questa volta con la tastiera. Questa volta con la tastiera. Vite parallele. No, non te la faccio con la tastiera, no, te la faccio con la chitarra. Ah, che sorpresona. Visto? Vabbè. Allora, salutiamo Francesco. Sì, salutiamo. I microfoni aperti ad Andrea Miro. Sì, grazie a tutti amici, siete stati con Blu Radio Sera, l'appuntamento con la grande musica dal vivo continua nelle nostre frequenze, quindi state con noi, seguiteci, guardate anche il sito bluradioveneto.it. Grazie a Flavio Bilato, grazie a me stesso che nonostante qualche congiuntivite che mi fa compagnia riesco a tenere botta, e grazie soprattutto ad Andrea Miro. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie ancora, buonasera, vi lasciamo i microfoni aperti con Andrea Miro, il suo pezzo Vite Parallele, e ricordiamo Elettra e Calliope. Voilà. Là sulla panchina guarda dove non sa, la signora chiusa nel cappotto non sorride, mentre il cane lì vicino a lei dorme, l'uomo col cappello fa il suo giro come sempre, ma non la disturberà. Questa è l'ora fuori dalla normalità, l'ora d'aria fuori dalla vita quotidiana, persa in una prospettiva già strana, e raggiunge tra le luci il centro della scena, e nei suoi occhi così, mentre sogna si confondono fantasia e realtà, e si perde lungo il soffio di un'idea, e tutto il mondo gira piano intorno a lei, un'illusione ottica per non morire più. ma questa vita parallela dura solo un po'. Macchine e semafori che non vede mai, la sua faccia stanca non è stanca di volare. Giorni più felici tutti quanti per sé, non ci sono ansie nella mente, tutto è entusiasmante, splendente sarà. Mentre sogna si confondono fantasia e realtà, e si perde lungo il soffio di un'idea, e tutto il mondo gira piano intorno a lei. Orizzonte magico per non morire più, ma questa vita parallela dura solo un attimo. I suoi occhi così, mentre sogna si confondono fantasia e realtà, e si perde lungo il soffio di un'idea, e tutto il mondo gira piano intorno a lei, un viaggio dolce lì per non morire più, ma questa vita parallela dura solo un attimo, dura solo un attimo.